i mercati sono nervosi bene ha fatto la Banca Centrale Europea a tranquillizzarli con le dichiarazioni di Trichet e con la decisione di mantenere i mezzi, gli strumenti di rifinanziamento a breve termine aperti ed intatti. Il fatto che oggi i mercati abbiano reagito positivamente dimostra che i mercati stanno disperatamente cercando nella politica economica un segno di leadership. Questo è un fatto un po' paradossale, perché se confrontiamo dove siamo oggi, dove stavamo 6 mesi fa, prima della crisi greca, l'Europa ha messo in campo un sistema di strumenti istituzionali e finanziari che prima non era neanche pensabile. Quindi c'è in corso una risposta istituzionale a livello europeo che si aggiunge alle risposte politiche a livello nazionale nei paesi in cui c'è l'aggiustamento, cioè a cominciare dalla Grecia, aggiustamento fiscale e di politiche strutturali, che è veramente importante. La domanda ovviamente è: basta questo a tranquillizzare i mercati? E quello che i mercati continueranno a chiedere nelle prossime settimane, nelle prossimi mesi, è una stabilizzazione definitiva. In che senso? Nel senso che venga fatta chiarezza sugli strumenti a disposizione, venga fatta chiarezza sulla credibilità dell'aggiustamento, il quale può essere anche lungo, durare un paio di anni, ma che sia almeno precisato. Quindi il gioco non è in mano ai mercati, la candela non è in mano ai mercati, la candela è in mano alla politica economica e monetaria. Se i mercati non vedono questa risposta decisa della politica, allora cominceranno ad essere ancora più nervosi. Ma questa è la situazione, quindi io sono fiducioso perché vedo che la politica in Europa sta rispondendo.